sicuramente il 2021 è un po' l'anno della riscossa contro la Cina, se vogliamo, nel senso che quest'anno proprio negli ultimi mesi si sono registrati toni particolarmente più critici rispetto all'atteggiamento della Cina. Questo probabilmente anche dovuto, dal mio punto di vista, è dovuto a due fattori. Il primo è che oggettivamente la Cina è diventata protagonista di una serie di iniziative e processi che hanno delle caratteristiche estremamente critiche per i paesi occidentali, in particolare l'Europa e gli Stati Uniti. E l'altro fattore è proprio un po' il ritorno degli Stati Uniti nell'alveo della partnership occidentale con la fine dell'era Trump e l'avvento dell'amministrazione Biden. Per cui se da un lato c'è un confronto più serrato con un attore più critico che è la Cina, dall'altro c'è anche un partner che è di nuovo pronto a sostenere i paesi occidentali, i paesi europei. Quindi insomma si rinsalda l'alleanza d'Occidente. Durante il G7 si è parlato di diritti umani, ma è la vera ragione che vede gli stati occidentali critici nei confronti della Cina? È una domanda assolutamente fondamentale. Rileva a questo proposito che in una fase antecedente a quella strettamente attuale le critiche dei paesi occidentali, nella fattispecie dei paesi europei nei confronti della Cina, si sono concentrate in particolar modo su questioni economiche e nella fattispecie sulla mancanza di reciprocità. Uno dei simboli di questa critica è per esempio il negoziato sull'accordo sugli investimenti che ha visto in qualche modo connessi e disconnessi Cina e Unione Europea tra il 2013 e il 2020 e anzi anche il 2021. Adesso c'è un accordo, l'accordo è stato raggiunto, ma l'accordo stesso sugli investimenti è nuovamente in pausa, se non altro proprio alla luce delle sanzioni che sono arrivate dalla Commissione Europea e come forma di reazione poi in una fase immediatamente successiva dalla Cina, però per questioni che non riguardano assolutamente l'economia. Quindi se per un periodo diciamo abbastanza consistente, per una serie di anni, in qualche modo i diritti umani sono scivolati in seconda posizione nel confronto tra paesi europei e Cina, proprio adesso che invece le questioni economiche sembravano, quantomeno da un punto di vista ufficiale, guadagnare qualche tipo di slancio, l'atteggiamento cinese che è criticato dai paesi europei, che è diventato estremamente significativo, è quello sui diritti umani. Ci sono dei motivi per cui questo fenomeno si è registrato. Ovviamente mi riferisco agli accadimenti nello Xinjiang e in altre regioni della Cina, ma anche a quanto dal 2019 accade a Hong Kong, nel senso che da un punto di vista empirico e quindi in realtà si vedono dei processi che sono estremamente critici e che quindi rispetto a cui la reazione assume anche una qualche ragionevolezza. Però va anche detto insomma che l'Europa non si tira indietro nel fare accordi con Libia, Egitto, Arabia Saudita, Turchia, dove i diritti umani insomma non è che siano molto rispettati, quindi insomma forse è anche un'argomentazione, no, che si usa all'occorrenza. Assolutamente sì, d'altronde riconoscere gli errori della Cina non significa assolutamente, diciamo, perdonare gli errori dei paesi a noi più vicini, quantomeno da un punto di vista geografico. Sicuramente c'è una strategia, sicuramente diciamo non è solo una questione di contenuti e sicuramente non c'è coerenza rispetto all'approccio dell'Europa e dei paesi occidentali sulla questione dei diritti umani e su altre questioni, non ultimo quanto è accaduto recentemente, quanto accade drammaticamente in maniera ricorrente tra Palestina e Israele, questione rispetto alla quale non si è mai registrata una presa di posizione netta da parte dell'Europa e dei paesi europei singolarmente, la dice lunga rispetto a quanto è vero quello che sollevi tu, Alessandro. Oggi il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha detto: non stiamo entrando in una nuova guerra fredda e la Cina non è il nostro nemico, però bisogna affrontare le sfide che l'ascesa della Cina pone alla nostra sicurezza. Allora l'ha evocata lui, però insomma il clima sembra un po' da guerra fredda e cresceranno le tensioni nei prossimi mesi, nei prossimi anni? Credo che le tensioni a cui stiamo assistendo in questo periodo siano già indice di una situazione particolarmente grave. Mi sembra chiaro che dalla prospettiva dei paesi occidentali, quello che ha detto Stoltenberg è assolutamente semplificativo in questo senso. Rispetto a che atteggiamento assumere nei confronti della Cina, voglio dire, mi sembra sotto la luce del sole che è un atteggiamento che mira a un isolamento del paese. Se questo atteggiamento porterà dei frutti, non lo so. Tendo a credere che non porterà alcun frutto e tendo a credere che probabilmente questo tipo di approccio sortirà gli effetti esattamente opposti a quelli che si intende raggiungere. raggiungere, ovvero una Cina più aggressiva, una Cina più isolata, una Cina più intenta a coltivare relazioni con un arco di mondo con cui pure la Cina intrattiene le relazioni molto strette. Non sto parlando dal punto di vista, ovviamente non sto parlando della questione militare, la Cina ha una singola alleanza militare ufficiale con la Corea del Nord, ma ha una partnership molto forte, per esempio soprattutto negli ultimi anni, con la Russia. Quello che probabilmente vedremo come rimpallo di queste sanzioni, o come diciamo necessaria conseguenza, sarà una Cina più disillusa e meno intenzionata a intrattenere dei rapporti con l'Occidente, invece più intenta, concentrata e focalizzata a consolidare le relazioni con tutta una fascia di mondo con cui pure noi occidentali abbiamo in precedenza interagito, non esattamente con un grande spirito di etica e di giustizia. Non credo che sarà una strategia che porterà alcun frutto concreto, credo che sia solo e unicamente il risultato di un approccio ideologico che si può accettare come no, ma questo è, quando poi questo viene detto nei confronti della Cina, naturalmente assume tutto un altro significato. Però ecco, questa è una decisione politica, non è una decisione necessaria, probabilmente un approccio più pragmatico, e quindi tenere ancorate, con tutte le criticità che pure esistono, con tutti i rilievi che pure vanno fatti rispetto alla Cina, probabilmente mantenere in piedi, se non altro una dialettica da un punto di vista diplomatico e politico, probabilmente forse su un periodo più lungo, forse con sforzi sicuramente più esosi da un punto di vista di giustizia internazionale, anche magari di responsabilità del paese Cina, avrebbe sortito qualche conseguenza in più.